Bravissimi! Ora quante volte dovrete saltare la radice? Quando siete pronti, posizionate il tag voce sullo schermo per dare la vostra risposta.